posso, ma comunque sia già va bene, dai, ciao. Veglia, a casa tua stai già bene, no? Allora, dai, lasciami la drummi. Sì, che sto incominciando a perdere, so. Ah, poi è chiaro, sentiamo io poi per la caccia, ciao. A passo, stai salendo a casa, sì. Per quella cosa Era ora, almeno non soffri, dai. È un po' dolorosa l'operazione, ma se è necessario bisogna farla. Purtroppo sì. Lo so, però piano piano una persona, come si dice, c'è il meglio e c'è il peggio e poi viene il meglio. Questo diciamo che compensa una cosa male, ma forse è più facile. Mi sono un attimino distratto perché stavo vedendo una bella cosa in televisione. Ma la caffè stai guardando, no? No, ho visto due chiappe, Uiuia. Ah! Stavo chiamando Uber 15 di Pierino. Cazzo di mia chiappi, vedi che vedano. E quello mi ha tolto la gonna, non so cosa ha fatto, qualcosa della lana. Ha preso la lana, mi ha tolto il coso della gonna e poi ci ha tolto il camice e ci avevano tutte quante le chiappe. Sei sintonizzato, Luca? Luca Magnetti. Magna magna, a me ci faccio la serata. E c'è anche io più rosso, amico. Gianni stava mangiando le castagne. E non sa che rientrava perché la moglie ha preparato le castagne e stava mangiando. Vabbè, domani andiamo. Gai, esse su conto, gai, esse. Cosa, Luca? Su conto, gai, esse. E comunque Daniele, mi senti in televisione? Attento Daniele, displatter, scappa. Dove è Daniele? Taga da Giulia. Vedi in che canale è? Non lo sai. Canale 5. Che cosa sta parlando? Con questo contatto. Non la conosco. Yeah. stiamo dicendo a te Luca, Luca è questo. Chiamano Giovanni, comunque la voce tua è incomprensibile. Io mi sento. È uguale, cambia di appena appena. Però è uguale, anche a per il turismo è uguale. Cioè, è uguale alla sindaco di Coa che ho qua. Che culo, ci se ne parlano quacco. Grazie. No, ma ne dici tu che tu li facevi quelle, quella cosa lì, andati a fare quelle serate, le cose lì. A teatro. Chi vi aveva di dire, no? Cazzo di friare. Cioè tu mi calcolavo quella ragazza di dormire in macchina. Ci vuole rifare i miei di dormire in macchina. Ma io dormi otto notti in macchina, otto notti. E da chi hai lavorato? La cena, Cricagliari. Dico, la cena. Come? La cena come sarei fatta? Faccio le pace, non ci vuole una lessina. Ma no, ci vuole un milione in busciacca, otto ricco. Non so, sei peggio di Zingari, poi sempre in giro per tutta quanta la Sardegna, anche fuori. Ma che adesso un uomo di Zingari? Non mi dà macchina, adesso ogni giorno, pulito ogni giorno, cambiato ogni giorno, ogni santo giorno ho cambiato, da A alla Z, adesso me lo faccio lì in teatro, ogni giorno, guardi che rimane brutto. Ma c'erano i bagni, c'era tutto. No, c'è uno stanzino, no. Allora, ti parte la luce, ti chiamavi, se volevi uscire, uscivi, stato a farvi lì al calduccio. No, ma cameretta c'era, là. No, uno stanzino, dove... si organizzavi, sì, vale, metti qualcosa in terra per... se riposarti un po', però bene, però a letti non ce n'erano. Ah, in terra, di cui si c'era, dove la mia macchina. Infatti. Se mi pare servavo usci qui sacchi in terra tipo cuscino c'avevo tutto la sacca dal cambio bagno schiuma visto che vivo via tutto la bagna mi dico si marini pari paimera oppure il ristorante non la faccio fare se siamo salvati io ero aiutante elettricista oppure pacchinaggio a scaricare. Aiutante pacchinaggio erano in lire 200.000 lire al giorno. Carico e scarico, allora scaricavo alle 8, poi iniziavi a mezzanotte e finiva alle 3 del mattino. E totale ore quanto facevi? Sono dalle 8, fai che finiva alle 11, poi facevi da mezzanotte alle 3 e anche un risopro. Dalle 8 alle 11. Sono 3 ore, 8, 9, 10, 11, poi da mezzanotte alle 3, 6 ore, ripreso, 6 ore e mezzo. Allora non va bene, per il prezzo così sì. Invece il tanto elettricista erano di più, erano 300.000 lire, però lì dovevi stare sempre lì. Dall'otto finza per fare tutto gatto, quando vai i fari, e non è uscito, dovevi stare lì. Poi fare l'impianto se va bene, una volta che si guardava la lampadina dovevi essere lì per cambiare la messa lì e cambiarla. Vabbè, 24 ore su 24 dovevi rimanere lì. Io ne guadagnavo in H, era sempre pieno. Allora io l'ho conosciuto Massimo Wettenmüller, era quello. Questi miei, sì, quando le facevo la pubblicità della Win tanti anni fa. Aveva lì ritirato. Certo, poi c'era Secchi, quella che faceva la pubblicità del panno Maregatti che vincevi la Ferrari, mi sembra, una signora grande, con gli occhi